Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Buongiorno e buon Natale a tutti, decisamente una puntata speciale per Ferry Boat, quella del, proprio del giorno di Natale e giorno dei valori, dico, mi piace ricordare che forse oggi c'è spazio, non ce n'è tantissimo ormai, soprattutto sui media, per parlare dei valori e non del valore, per cui oggi la puntata non ha un tema che sviluppiamo come al solito, ma lasciamo fluire liberamente i sentimenti. La lista dei desideri di Save the Children. Dal vaccino al cibo ai giocattoli, ma il più gettonato è sempre lui, lo Yak, il bue tibetano di Jobe Covatta. Una carriera da manager per i giovani disagiati è possibile. Ci pensa BNL, che finanzia borse di studio per fare carriera nel terzo settore. Miriam ha studiato, tanto. Ha fatto la volontaria, con intensità. Ha incontrato uomini e donne disabili di valore e ha raccontato le loro storie in un libro. Vi ricordo che, beh, insomma, se volete farmi gli auguri anche voi per una volta, potete scrivermi a ferrybot @radio24.it, che è il nostro indirizzo, Ferry con la Y, vi ricordo. Il nostro sommario è come al solito un po' sopra le righe, quindi giochiamo un po' con le parole. Valerio Neri, presidente di Save the Children, con noi. Lo Yak, il bue tibetano di Jobe Covatta, è proprio un modo per strappare un sorriso, ovviamente per parlare di argomenti serissimi, ma ha funzionato come icona lo Yak. Sì, è vero, purtroppo bisogna anche ricordare, noi abbiamo vogliamo anche alleggerire i toni in questa giornata di festa, no? Poi ovviamente bisogna dietro ricordare che il bue tibetano, lo Yak, salva la vita di bambini e famiglie in Nepal, perché la situazione alimentare e la mortalità infantile di quel paese è assolutamente tragica, quindi al di là di questo giocoso simbolo di tutta la lista dei desideri del nostro sito per i regali natalizi, dietro c'è una realtà un po' sconfortante, per questo lo facciamo. Ecco, salva la vita dei bambini, ma materialmente perché è diventato, perché se lo mangiano? No, non solo perché se lo mangiano, lo Yak è praticamente una totale industria alimentare per tutta la famiglia se sta in vita, per il latte soprattutto, la lana, la forza fisica, permette ai genitori di arare i campi, ed è praticamente il bue di casa, no? Come anche in Italia nella fine dell'Ottocento chi aveva un bue o anche un toro in casa poteva avere una grossa ricchezza alimentare, no? Perché era latte, era lana, nel nostro caso lana no, ma insomma era latte, era pelle, era tanto. Ancora di più lo Yak, proprio perché a tutto ciò aggiunge anche una pelliccia e una capacità quindi di fornire riscaldamento fisico. Fisico, alimenta la famiglia. Save the Children propone una lista dei desideri, cioè fate i regali, ma fateli anche attraverso Save the Children, non solo quindi una contribuzione finanziaria, ma proprio una relazione che crei nel giorno e nel periodo delle feste natalizie. Sì, è molto semplice, no? Basta collegarsi al nostro sito che è www.desideri.savethechildren.it, oppure sul Save the Children poi ci si arriva direttamente, e si scelgono tutta una serie di regali molto significativi per i paesi in via di sviluppo, come sono i vaccini, come sono alberi da frutta, polli, perché anche avere dei polli in certi paesi fa la differenza tra la vita e la morte, eccetera, certo. Eccetera. Si sceglie, si compra inviando i soldi e si può dire a quale amico destinare questa che diventa una cartolina e che rappresenti il regalo. Quindi io personalmente ho ricevuto da degli amici che mi conoscono bene 40 polli in regalo e mi è arrivata una cartolina che può essere o cartacea o via mail, che è ancora più rapida, in cui mi si dice, non so, il tuo amico Paolo per questo Natale ti ha regalato 40 polli a favore delle popolazioni e dei paesi in via di sviluppo. Oggi una cosa molto carina. Molto carina e divertente, ripetiamo, giocare in questi casi è, come dire, il fine giustifica i mezzi, no? Quindi giocare per poter alimentare questa partecipazione è importante. Oggi è il giorno di Natale, quindi è finita l'odissea per alcuni, il delirio dei regali, però questo non vuol dire che uno non li può fare anche dopo il Natale, no Valerio? Cioè, anzi, no, c'è il Capodanno, poi c'è la Befana, e poi c'è tutto l'anno, no? tendono a fare la Befania, l'Epifania particolarmente. Poi c'è San Valentino, di solito la nostra lista va molto bene anche per San Valentino, ci sono dei regali magari che si adattano di più un po' al momento del San Valentino. Non credo che esistano molte persone che ci stanno ascoltando e che non conoscono Save the Children, però è possibile umanamente che questo avvenga, Valerio. Allora, a queste persone che non conoscono la tua associazione, per favore descrivila. Grazie, purtroppo c'è molta gente che ancora non conosce Save the Children. Comunque il nostro nome parla chiaro, no? In inglese Save the Children vuol dire salviamo i bambini. È un'organizzazione mondiale, sta in tutti i paesi del mondo, sia nel mondo peggiore, il più povero, il più derelitto, in guerra, eccetera, ma anche nei paesi più fortunati come l'Italia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, nei paesi ricchi raccoglie fondi da destinare poi ai paesi più poveri per aiutare famiglie e bambini a sopravvivere, o per dare loro della scuola, per dare loro della protezione, o per, devo sempre ripeterlo, levare i bambini da situazioni di schiavismo vero e proprio che si danno nel mondo, bambini che a pochi anni sono costretti come schiavi a lavorare nelle cave di pietra, a bambine e bambini di pochi anni costretti a prostituirsi, non posso neanche dirlo, a essere usati come oggetti sessuali in altre parti del mondo. Oggi è una giornata di festa per tutti, non voglio esagerare con i toni tragici. Però non dobbiamo neanche rimuoverle queste cose. In ogni parte del mondo l'uomo ha inventato anche un modo orrendo di riferirsi all'infanzia, e quindi in ogni parte del mondo c'è bisogno di aiutarlo. Valerio Neri, grazie. Grazie anche perché comunque, dicevamo fuori onda, la tua attività, l'attività di Save the Children è veramente di eccellenza, e grande serietà, grande affidabilità, lo raccomando anche ai nostri radioascoltatori, non che le altre associazioni non lo siano, ma indubbiamente il lavoro che state facendo è assolutamente ammirevole. Buon Natale, Valerio. Grazie tanto, buon Natale. E buon Natale anche a Paola Fanelli. Passiamo dal no profit, totale, al profit, una grande banca. Paola Fanelli, buongiorno e buon Natale. Buongiorno a te Enzo, buon Natale a tutti. Una grande banca che si è distinta, da tempo ormai collega il suo marchio a Teleton, no? Quindi la grande giornata dedicata alla raccolta per la ricerca, ma in questo caso con Paola Fanelli, che è responsabile della CSR, volevamo parlare di un'altra iniziativa che riguarda i giovani disagiati e il terzo settore. Ce la vuoi raccontare, Paola? Certamente, io desidero sottolineare un punto chiave, che per noi la responsabilità sociale d'impresa non è soltanto assistenzialismo, nel senso che è importante farlo, è importante fare donazioni, lo facciamo, però per noi soprattutto dare sostegno a chi ha difficoltà, chi ha profonde difficoltà per raggiungere i propri obiettivi di vita. E noi nel 2006 ci siamo avvicinati al mondo dei giovani disagiati, finanziando una ricerca in partnership con AIBI, che è l'associazione Amici dei Bambini, una ricerca che ha esplorato il tema dell'abbandono giovanile. E francamente i risultati della ricerca ci hanno aperto gli occhi su un mondo forse non molto conosciuto, che in Italia ci sono addirittura 30.000 caregivers, che sono quei giovani senza famiglia, che sono cresciuti in strutture residenziali, in case famiglia, eccetera, e che una volta compiuti 18 anni perdono il diritto al sussidio statale. Ecco, questi giovani disagiati di cui si parla nel vostro progetto sono questi, quindi non sono giovani, come dire, che hanno una vita difficile piuttosto che delle difficoltà fisiche o psicologiche, sono queste persone di cui state parlando. Esattamente, è proprio una categoria definita così anche dall'Istat. E quindi voi avete concentrato la vostra attenzione su questi giovani che dopo i 18 anni entrano nel mondo senza avere, come dire, riferimenti ormai di nessun tipo, né istituzionale né tantomeno familiari, ovviamente. Né tantomeno familiari, esattamente. La riflessione che ci siamo fatti allora è stata quella di capire se questi giovani care leader fossero anche emarginati in futuro, cioè non potessero per esempio proseguire gli studi o accedere al mondo del lavoro perché non potevano, per motivi economici banalmente, ricevere una formazione professionale adeguata, nonostante avessero le capacità e le motivazioni. Quindi da questa riflessione è nato proprio il progetto che abbiamo chiamato Da Care Leaver a Care Leader. Un progetto in partnership con AIBI e con ASVI. ASVI è la Fondazione per lo Sviluppo del Non Profit ed è impegnata da anni nella formazione manageriale del terzo settore. con questo progetto cosa facciamo? Mentre AIBI, ricordiamo, scusa, AIBI è invece l'associazione per i bambini, no? Sì, sì, quello è per l'adozione, l'adozione internazionale. Esattamente. Mm-hmm. Con questo progetto noi finanziamo 3 borse di studio per frequentare un master di formazione annuale che consentirà di diventare un manager del non profit. E 2 di queste 3 borse di studio sono proprio destinate a 2 caregiver, a 2 giovani che vengono selezionati con noi con AIBI, e a questi 2 ragazzi in particolare offriamo anche la copertura totale delle spese vive, mentre al terzo ragazzo soltanto la borsa di studio. Ecco, diventare manager del terzo settore è sicuramente un argomento importante, perché il terzo settore in Italia è uno dei pochi che, come dire, non si può non definire critico, anche se l'abbandono del 5 per 1000 li sta mettendo un po' in crisi, e noi siamo forti nel terzo settore, è un settore importante della nostra economia. Manager del terzo settore, che caratteristiche deve avere a differenza degli altri manager, per esempio? Il manager del terzo settore deve unire competenze tecnico-professionali e conoscenze di base del mondo della responsabilità sociale di impresa, quindi deve avere competenze e sensibilità che questi giovani care leader a nostro avviso hanno per nascita, tra virgolette, ahimè, nel senso che loro hanno vissuto come soggetti attivi il mondo del terzo settore, e poi con questo master invece potrebbero farne parte da addirittura manager, quindi da coloro che possono dare un contributo nell'assistere chi ha più bisogno di loro. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat, puntata natalizia. Se per gli auguri ce li possiamo scambiare anche attraverso ferryboat@radio24.it. Continuiamo con Paola Fanelli, responsabile CSR di BNL, in questa puntata dedicata, come dire, ai sentimenti e ai valori. Dopo Save the Children e la lista dei desideri, con Paola Fanelli abbiamo parlato del master dei giovani disagiati per diventare manager del terzo settore. Paola, com'è strutturato il master? Guarda, il master ha 3 indirizzi di studio con una forte vocazione internazionale. Gli indirizzi sono per diventare project manager della cooperazione internazionale, il secondo fundraising e comunicazione, e il terzo Euro Project Management, progettazione formativa e local development. Questo dà la possibilità ai giovani selezionati di poter scegliere l'indirizzo che è più consono al proprio profilo. Ecco, questi giovani li selezionate voi, avete, che immaginiamo che attraverso anche associazioni, avete una lista di giovani aspiranti, si iscrive, come funziona? Può iscriversi chiunque? Beh, guarda, ci sono delle caratteristiche che questi giovani devono avere e che noi abbiamo in qualche modo condiviso con AIBI, che è il nostro partner nella ricerca di questi ragazzi, perché AIBI ha la possibilità di coordinare il network delle strutture residenziali in Italia, e quindi di avere molti contatti diretti con le persone che seguono questi ragazzi, che se ne prendono cura, e quindi in qualche modo loro direttori di ciascuna struttura residenziale sono coloro che ci segnalano i ragazzi che hanno la motivazione, oltre che le capacità personali, per poter accedere a questo corso. Ecco, altre informazioni, i docenti, il luogo, eccetera? Guarda, sulla didattica è davvero molto evoluta, perché ci sono sia lezioni in aula che anche moduli di formazione a distanza. Gli stage vengono fatti in Italia e anche all'estero. I ragazzi vanno a Londra, Bruxelles, Barcellona, e una cosa molto interessante è che i manager del settore, quindi professionisti del terzo settore, del profit e del non profit, condividono con questi ragazzi le proprie esperienze, quindi forniscono orientamenti concreti a chi seguirà questa scelta di formazione. Bene, grazie Paola Fanelli, complimenti per l'iniziativa e ovviamente buon Natale. Grazie, grazie a te Enzo, buon Natale a tutti gli ascoltatori. Continuiamo la nostra puntata natalizia con un altro piccolo viaggio che propone Ferry Boat. Questa volta passiamo dal mondo del disagio al mondo dei disabili, con una testimonianza a cui teniamo particolarmente. Miriam Altamore, ciao e buon Natale. Buongiorno a tutti, buon Natale anche a voi. Da come si sente chiaramente dalla voce, Miriam, si sente che hai 22 anni, è una studentessa E ha scritto un libro che si intitola Come profondo il mare, avete sentito dal sommario, edito dal Paolini Editoriale Libri. Miriam, dicelo tu, che cosa racconti in questo libro? Il mio libro è un diario, quindi un diario della mia esperienza, del mio incontro con le persone con disabilità. E quindi nel libro appunto sono raccontati proprio delle storie, testimonianze di vita e anche sotto forma di intervista su come affrontano la vita, su quello che fanno. Ecco, come mai tu ti sei trovata a contatto con questi giovani e giovani? Diciamo che l'incontro è stato casuale, nel senso che io ho iniziato a fare volontariato 5 anni fa in un'associazione e poi da lì ho iniziato il mio cammino anche di conoscenze, di amicizia di queste persone e piano piano ho allargato il giro, quindi adesso ho conosciuto anche appunto quelli che sono i miei amici che sono in carrozzina con cui esco tutti i sabati sera. A me è sempre stato proprio un incontro naturale, senza forzature. Perché hai scritto un libro sulla loro storia? Pensi che raccontarla, questa storia, serva a che cosa? Alla sensibilità delle persone, ad allargare il raggio delle Miriam Altamore che sabato sera escono con questi giovani sfortunati? Ma ho cercato più che altro di raccontare qualcosa che non è molto conosciuto, perché comunque di solito si pensa che una persona disabile compia delle azioni che siano solo legate alla sua malattia, quindi ho cercato di mostrare un lato che è il lato della vita quotidiana che magari non tutti conoscono. Poi faccio qualche esempio, ti viene in mente qualcosa in particolare senza fare torto a nessuno di loro? Ci sono varie storie nel libro da Antonio che appunto lavora, scrive nonostante muova solo la testa, piuttosto che una ragazza, Cristina, che fa la suora, quindi una ragazza down che ha scelto di diventare suora laica. Cioè sono proprio storie di quello che fanno, che veramente, cioè di come riescono a uscire dalla loro situazione, della forza comunque interiore che spesso magari non è conosciuta. Chi è che, a parte il volontariato, nel libro mi pare si fa anche riferimento, o comunque l'obiettivo è quello di sensibilizzare la pubblica amministrazione, che forse non ha quell'attenzione che dovrebbe avere con questi giovani? Sì, io dico sempre che c'è in questo periodo almeno una scarsa attenzione alle persone con disabilità, nel senso che anche le iniziative che vengono fatte sono sempre per il disabile, per il malato, mentre invece bisognerebbe cercare sicuramente di considerare la persona con disabilità innanzitutto come persona, quindi partire dai suoi bisogni che non sono soltanto bisogni legati alla malattia. Quindi alla normalità dei disabili. Rendere l'ambiente accessibile alle barriere psicologiche, mentali, a tante altre cose che andrebbero migliorate. Perché l'hai chiamato, l'hai intitolato così, il libro Come profondo il mare? Che cosa ti riferisci? Profondo come il mare perché diciamo che per me descrive proprio l'incontro che è stato per me con le persone con disabilità, perché come è scritto anche nel libro, all'inizio comunque la disabilità può spaventare, però poi conoscendola piano piano diventa veramente immensa e profonda come il mare, nel senso che si scavando si scoprono veramente delle persone grandissime. Quante sono le storie che racconti i tuoi amici in questo libro? Quanti sono più o meno? In questo momento più o meno saranno 5 o 6, se non erro, perché... Va bene, no, non volevo fare, cioè non era importante il numero, era solo perché volevo augurarti buon Natale, volevo che anche tu l'augurassi a loro, magari se ti ricordi i nomi li vuoi citare, ma se non te li ricordi tutte e 5 o 6, non importa. Te li ricordi? Sì. Allora dai. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutata col libro, faccio gli auguri di buon Natale a tutti e in particolare sicuramente ad Antonio, Francesca, Lorella, Dario, sono tanti, Cristina, Andrea, ce ne sono veramente tanti, poi le persone che mi hanno aiutata e che hanno contribuito sicuramente sarebbero infinite, perché ognuno ha dato nel suo piccolo il contributo, quindi... Grazie Miriam, so che ancora ti devi laureare, dopo immaginiamo una carriera, un lavoro nel mondo del no profit. Sì, sicuramente, il mio sogno sarebbe diventare educatrice per disabili. Speriamo che si possa realizzare. Buon Natale Miriam, buon Natale. Grazie a voi. Buon Natale a tutti voi che ci ascoltate, una puntata di Ferribot dedicata al mondo detto all'inizio dei valori, dei sentimenti di cui forse appunto non abbiamo grande facilità di contatto in questo mondo mediatico così aggressivo, diciamo così. Auguri anche ad Anita Panizza in redazione, a Filippo Aureggi che ha curato la regia. Ricordatevi che questo programma potete riascoltarlo su radio24.it e che potete scrivermi all'indirizzo ferribot@radio24.it. Buon Natale.